Europa 24. La Commissione europea ha approvato questa mattina l'atteso piano per la gestione dell'immigrazione legale ed illegale. La proposta, che andrà approvata dal Parlamento europeo e dai governi nazionali, prevede il reinsediamento in Europa su base volontaria di 20.000 profughi oggi fuori dal territorio europeo. All'Italia spetteranno 2.000 persone. Inoltre, la Commissione propone una ricollocazione per paese con quote obbligatorie degli immigrati già arrivati in Europa. In questo caso l'Italia spetterà il 12% del totale. Il piano della Commissione rimette in discussione il principio di Dublino, che in questo momento stabilisce come la responsabilità dell'accoglienza spetti al paese in cui l'immigrato è sbarcato. L'obiettivo è di introdurre maggiore solidarietà tra i paesi membri e alleviare le pressioni sui paesi del Mediterraneo. La proposta presentata oggi, che non piace a molti governi e rischia di scatenare negoziati difficili, serve a rispondere all'emergenza di breve termine. Proposte di più lunga lena sono attese entro fine mese. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Di fronte ad un'emergenza drammatica, l'Europa ha finalmente capito l'urgenza e nelle ultime settimane ha compiuto passi da gigante, dice l'alto rappresentante della politica estera europea Federica Mogherini, presentando l'agenda per l'immigrazione. La situazione nel Mediterraneo è senza precedenti ed eccezionale, ha detto la Mogherini. Per questo serviva una risposta eccezionale, immediata e coordinata. Abbiamo proceduto in modo integrato e coordinato, l'Europa ha fatto dunque passi da gigante. E veniamo ora alle raccomandazioni economiche della Commissione europea, attese per oggi. In diretta Laura Bettini. Buongiorno, sì, sono arrivate anche qualche ora prima del previsto queste raccomandazioni. È importante che gli Stati membri garantiscano che la ripresa non sia solo un fenomeno temporaneo e per questo i paesi della zona euro devono mettere enfasi sulle riforme strutturali per correggere gli squilibri macroeconomici, aumentare gli investimenti, proseguire politiche di bilancio responsabili. Così ha detto il vicepresidente della Commissione europea Dombrovskis nel presentare queste raccomandazioni. Per l'Italia è andata un po' come previsto, si conferma la fiducia, la UE conferma i target di bilancio indicati dall'Italia, 0,25% nel 2015, 0,1% nel 2016, prendendo in considerazione la deviazione consentita per l'attuazione di riforme, raccomanda attuazione rapida e completa di privatizzazioni e decreti attuativi per la riforma del fisco entro il settembre del 2015. Nessun impatto immediato della sentenza della Consulta sulle pensioni. In queste raccomandazioni ci si potrà tornare semmai in futuro. A te. Grazie a Laura Bettini. Intanto oggi Eurostat ha diffuso i dati sulla crescita in Eurolandia. Si rafforza leggermente, ma meno del previsto, la crescita economica dell'area euro. Nel primo trimestre il PIL ha segnato un incremento dello 0,4% dai tre mesi precedenti, secondo la stima preliminare pubblicata da Eurostat. Un valore superiore al più 0,3% di fine 2014, ma leggermente più basso del più 0,5% atteso in media dagli analisti. Su base congiunturale, quindi rispetto all'ultimo trimestre 2014, l'Italia e la Germania sono cresciute dello 0,3%, dello 0,6% la Francia, dello 0,9% la Spagna, giù per il secondo trimestre consecutivo il PIL greco, meno 0,2%. Nel confronto su base annua, invece, la crescita del PIL si è attestata in Europa a più 1%. Il PIL dell'Italia è rimasto invariato, quello della Spagna è cresciuto del 2,6%, in Germania dell'1%, in Francia dello 0,7% e in Grecia dello 0,3%. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per Europa 24, un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24. Collaborazione con Euronet Plus.